Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Debs. Ben ritrovate e ben ritrovati con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Siete su Radio Città Fujiko sulle frequenze del 103.1 se vi trovate a Bologna, oppure sullo streaming se siete in altre terre. Oggi sono sola, ahimè, le altre redattrici mi hanno lasciato condurre questa puntata in solitaria e speriamo di non deludere loro e soprattutto voi che siete all'ascolto. In realtà non saremo proprio solissime, perché a breve daremo la parola al nostro ospite Silvio Antonini, autore del libro di cui andiamo a parlare oggi. Il libro, edito dalla Red Star Press a fine 2017, si chiama La battaglia di Cable Street, la disfatta delle camicie nere inglesi e la nascita dell'antifascismo militante europeo. Ovviamente questo titolo è molto esplicito e infatti ci accingiamo, come vuole il mese di aprile, a parlare un po' di antifascismo e resistenza, per aspettare insieme il 25 aprile. Non solo Van Loon dedica più attenzione a queste tematiche, ma anche in città sono varie le iniziative a tema. Infatti abbiamo intercettato Silvio proprio durante una delle serate di avvicinamento al 25 aprile tenutasi a XM24. Prima di attraversare la Manica e dirigerci verso Londra, vi dico che in questa puntata ascolteremo i Doo-Wop, gruppo OI con sede a Roma. In particolare andranno in onda alcune canzoni di Solo per noi. Questo disco è uscito inizialmente nel dicembre del 2001 per la OI Strike e ristampato poi dalla El Nation nel 2016. Segnalo una particolarità, cioè che la stampa che accompagna il vinile è un'opera di Flavio Costantini, artista anarchico italiano attivo tra gli anni 60 e 70. Un artista molto interessante che vi invito a scoprire anche solo con una semplice ricerca su internet. Bene, iniziamo quindi questa puntata con la grinta della canzone Duri a perdere di Doo-Wop. Tieni duro! Siamo in aprile, mese che come d'abitudine dedichiamo all'antifascismo e alla resistenza. Quest'anno abbiamo deciso di affrontare la tematica prendendo delle strade insolite, cercando di guardare la lotta contro il fascismo che si è sviluppata anzitutto dagli anni 20 e 40, con occhi differenti rispetto a quelli cui siamo solitamente abituati. Andiamo però a scoprire la strada che abbiamo imboccato per questo sabato, il nostro cammino alla ricerca della storia e delle storie dell'antifascismo e della resistenza. Oggi passo per una strada di Londra, Cable Street. Cable Street è una delle arterie di Whitechapel, quartiere delle atmosfere particolari. A pochi passi dalla City degli impiegati rampanti e dagli anni 60 il punto di arrivo e di residenza della numerosa comunità bengalese della capitale. Percorrendo la Cable Street di oggi si arriva alla sede della municipalità St. George Town Hall e si incontra la Cable Street del 36 e si scopre un episodio chiave dell'antifascismo inglese. C'è un murale dipinto alla fine degli anni 70 il cui tratto ricorda il muralismo di Diego Rivera. Per i corpi esasperati e la pioggia di colori che illustrano un turbinio di corpi e scontri. Aguzzando un po' l'occhio troviamo degli uomini che sorreggono uno striscione rosso con le scritte in giallo "Muslim shall not pass, bar the road to the British fascism". Siamo quindi nel cuore di quello che è stato uno degli episodi mitici della lotta al fascismo in suolo britannico, la battaglia di Cable Street, di cui parleremo con Silvio Antonini, autore de La battaglia di Cable Street. Innanzitutto sono pochi i testi in lingua italiana che provano a buttare uno sguardo su quella che è stata la conflittualità sociale e politica, sull'antifascismo militante di altre parti d'Europa e in fondo su tutto quello che è stato il fascismo in altri paesi d'Europa. Lo scontro tra fascismo e antifascismo è in fondo stato un elemento caratteristico di tutti gli anni 30 europei. Se in Italia si era affermato un regime fascista, c'era il forte timore che anche in altri paesi, più o meno democratici, potesse succedere. Per le destre e i suoi militanti vi era poi un modello cui adeguarsi, un modello da seguire per la presa del potere e nella lotta politica. Uno dei paesi in cui si realizzò questo tipo di scontro politico fu la Gran Bretagna, il paese che sarebbe di lì a 10 anni noto come l'unico paese in grado di sbarrare la strada all'espansione nazista. Le informazioni sugli anni 30 inglesi e sullo scontro tra fascismo e antifascismo le andiamo a recuperare da due libri di Valerio Gentili, storico militante di Roma che si è occupato di pratiche dell'antifascismo, Bastardi senza storia, edito da Castelvecchi nel 2011, e Antifa, storia contemporanea dell'antifascismo militante europeo, libro del 2013, edito anche questo da Red Star Press. Valerio Gentili, andando a recuperare testi e immagini britannici, ci racconta della rapida ascesa che caratterizzò Sir Oswald Mosley, da parlamentare dall'incerta collocazione politica fino a fondatore e capo della British Union of Fascists. Non che prima non ci fossero già movimenti di ispirazione fascista o che si richiamavano direttamente a Mussolini anche in Gran Bretagna, ma con Mosley il fascismo d'oltremanica si sviluppò come una forza capace di ottenere consenso non solo fra le altre gerarchie e la nobiltà che guardavano con simpatia all'ordine portato in Italia da Mussolini, e soprattutto come un'organizzazione capace di conquistare la piazza grazie alle camicie nere britanniche. Gentili, nei suoi testi, nota però che al fascismo di Mosley si contrappose un movimento variegato, che usò la stessa modalità: se i fascisti volevano lo scontro, l'avrebbero avuto, e Cable Street fu il teatro di una battaglia. Prima di dare la parola al nostro invitato, ci ascoltiamo un altro pezzo, sempre di Doo-Wop, del gruppo romano Doo-Wop, che si intitola Gente di strada. Yeah. Bentornati su Valloon, diamo subito la parola a Silvio Antonini che ci racconta cosa è stata la battaglia di Cable Street del 4 ottobre del 1936. Bene, diamo la parola a Silvio Antonini, l'autore di La battaglia di Cable Street, la disfatta delle camicie nere inglesi e la nascita dell'antifascismo militante europeo. Ciao Silvio, innanzitutto. Ciao. Bene, la prima domanda che ti faccio è proprio una domanda molto semplice, cioè raccontaci un po' che cosa è stata in sintesi la battaglia di Cable Street e raccontaci cosa ti ha spinto a scrivere il libro. A spingermi a scrivere il libro è stato l'editore. Avevo scritto un articolo sul Panele Rose, che è un magazine online dove faccio le recensioni, eccetera, e avevo scritto un articolo per l'ottantesimo. Se non che Cristiano Armati, l'editore della Red Star Press, mi ha proposto di farne un libro e questo è il prodotto. La battaglia di Cable Street è la sollevazione dei quartieri dell'est di Londra, popolati prevalentemente da ebrei, contro la marcia della British Union of Fascists. Il 4 ottobre del 1936 la British Union of Fascists di Mosley organizzò questa marcia per celebrare il quarto anniversario della nascita appunto del partito, se non che il quartiere si oppone, si solleva e a Cable Street appunto vengono alzate le barricate che di fatto impongono lo scioglimento della marcia fascista. Ok, benissimo. Ci vuoi raccontare chi c'è dietro questa battaglia? Perché immaginiamo che non è stata un'insurrezione così dal nulla, ma probabilmente c'era già un ambiente antifascista fertile in Inghilterra, soprattutto perché il 1936, anno in cui il fascismo in Europa era già una cosa che si stava conoscendo. Dici pure appunto chi sono i protagonisti di questa battaglia? Il protagonista è il popolo appunto dell'East End, sono gli ebrei, sono i portuali che erano prevalentemente immigrati di origine irlandese e per quanto riguarda le organizzazioni c'è innanzitutto il Partito Comunista che diciamo sostanzialmente guida a livello strategico la battaglia di Cable Street. Poi c'è il Partito Laburista Indipendente, un partito nato da una scissione con Labour, e poi le organizzazioni sindacali di base, come il sindacato della sartoria e dell'abbigliamento, e organizzazioni ebraiche come il Concilio del Popolo Ebraico contro il fascismo e l'antisemitismo, che era nato proprio a ridosso della battaglia di Cable Street, per chiamare gli ebrei alla sollevazione, mentre i rabbini, i maggiorenti della comunità ebraica richiamavano alla calma, i giovani si ribellano e prendono l'iniziativa. Ok, quindi possiamo dire appunto una composizione abbastanza variegata dell'antifascismo inglese. E farei notare appunto la presenza ebraica, che anche tu nel libro ne parli molto, gli dai molto spazio, che secondo me è anche un'occasione per ricordare, per disfare un po' un mito ebraico che vuole gli ebrei come carne al macello che si sono consegnati al fascismo. In realtà, come sappiamo e come abbiamo già ricordato in altre puntate di Valloon, gli ebrei e l'ebraismo hanno avuto delle forme di resistenza, e questa di Cable Street è forse solo uno dei tanti episodi. La battaglia di Cable Street è diventata probabilmente forse un po' un mito, almeno a Londra, basta ricordare il murale, se la storia del murale. Negli anni, secondo te, come si è solidificato questo mito? Chi sono i gruppi, i movimenti, le fazioni che lo rivendicano? C'è per esempio una rivendicazione solo istituzionale, solo di movimento? Insomma, come ci è sedimentato il ricordo di questa battaglia? Il ricordo della battaglia di Cable Street in Gran Bretagna è sedimentato e forte, e va dai Liberals fino ai collettivi antifa. Le manifestazioni che si tengono a ridosso o nel giorno del 4 ottobre lo dimostrano, insomma c'è una partecipazione massiccia delle organizzazioni antifasciste, antirazziste, insomma delle organizzazioni degli immigrati, diciamo che è molto sentita. Forse il 4 ottobre per i britannici è un po' per certi versi il nostro 25 aprile. Ok, ti volevo chiedere un'altra cosa. La storia del murales, ci vuoi dire qualcosa? Perché forse nell'immaginario di chi non è mai andato a Londra e ha sentito parlare della battaglia, la prima cosa che si racconta, che si dice, appunto, è proprio il murales. Il murales viene commissionato per il 40° di Cabot Street, per il 4 ottobre del 1976, viene commissionato dal municipio di Tower Hamlets, cioè il municipio della località, è un comitato di cittadini. Il mural doveva rappresentare sia le fisionomie dei personaggi del 36, quindi gli ebrei e gli irlandesi, sia le fisionomie delle nuove ondate migratorie che si sono susseguite poi dal secondo dopoguerra, prevalentemente quelle delle Indie occidentali e quella asiatica. Il murale, diciamo, è l'eredità materiale più grossa per quanto riguarda la battaglia di Cabot Street. Viene commissionato a due artisti, Paul Butler e David Binnington, che si ispiravano ai muralisti messicani. Benissimo, ti faccio un'ultima domanda, ti chiedo qual è stata la tua letteratura di riferimento per scrivere il libro e quali sono appunto le fonti, gli articoli, la letteratura che hai consultato. Diciamo, c'è una bibliografia pregressa da parte mia, quindi la bibliografia su, se vogliamo, sintetizzando lo squadrismo antifascista, cioè sulle organizzazioni che si sono contrapposte al fascismo. Io vengo dagli studi sull'arditismo popolare prevalentemente. Le fonti sono principalmente di questo tipo e poi ci sono le fonti online, insomma, che se uno studioso ricercatore si sa muovere, oggi comunque la rete offre una documentazione. In questo caso è stato a fare da traccia il sito Hope Not Hate, appunto, che ha pubblicato anche vari documenti, insomma, di quella giornata del 4 ottobre 1936. Quindi, diciamo, è multimediale. Ok, ti faccio un'ultima domanda, se vuoi rispondere. Che senso ha oggi parlare della battaglia di Cable Street nel panorama italiano? Insomma, immagino che sarei informato sull'ultimo dibattito antifascismo e fascismo. Secondo te che valore ha oggi appunto questo ricordo e questa storia? Ha valore perché fondamentalmente il fascismo è nato in Italia il 23 marzo del 1919. Però sicuramente in Gran Bretagna è stato un territorio di collaudo per il fascismo. Il primo fascismo che mette di fatto nei punti del proprio programma il contrasto all'immigrazione è proprio il fascismo britannico. È stato un laboratorio sia negli anni 30 e nel secondo dopoguerra, soprattutto negli anni 70. Quindi, per capire il fascismo e di conseguenza l'antifascismo, lo scenario britannico è fondamentale. Poi, diciamo, nel libro lo ricostruisco l'eredità sia chiaramente del fascismo che della contrapposizione adesso. Bene, grazie mille per questa intervista. Vi invitiamo a leggere La battaglia di Cable Street di Silvio Antonini, che salutiamo e ringraziamo. Grazie a voi. Se sei morto oppure se sei ringraziamo Silvio per la bellissima chiacchierata. La canzone che avete ascoltato è Eroi di Nulla, sempre di Doo-Wop. Noi siamo giunti al termine di questa puntata e vi lascio con un consiglio. Come detto, siamo ad aprile e la città si impegna a parlare di antifascismo. Vi invito a seguire le iniziative di vario tipo che si terranno in questo mese e ricordo quindi il consueto corteo del 25 aprile cittadino, che anche quest'anno sarà animato da varie realtà antifasciste bolognesi. Se volete continuare questo pomeriggio all'insegna della storia, vi consiglio l'iniziativa al Mambo di questo pomeriggio alle 17, Russia 1917, storie, figure e movimenti di donne. Io vi saluto e porgo anche i saluti del resto della redazione, che spero di non aver deluso. Ricordo di ascoltare i podcast su radiovonloon.info e buon pomeriggio!